Buonasera a tutti, qua 1, 3, Boots 1, 2, su Radio Wombat. Io sono Gravenco. Io sono NN. Intanto ci vogliamo scusare che domenica scorsa non siamo potuti venire in radio per fare la trasmissione, ma diciamo a livello fisico, a livello mentale ci siamo goduti la domenica. Esatto, non eravamo nelle condizioni giuste per la trasmissione. Nel senso, siamo stati reduci da un grandissimo concerto che oggi cercheremo di dare un riassunto pezzo per pezzo dei gruppi che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Esatto. Sabato scorso, scusate. Sì, sabato scorso. Quindi potete ancora capire che siamo ancora reduci dal concerto. No, il sabato scorso siamo stati a un concerto a Reggio Emilia, alla Q16, un centro sociale, organizzato in tutto da RLA, Real Life Army, una crew di skinhead e non solo. Esatto, di Reggio Emilia. Hanno organizzato questo festival, potremmo dire, anche se erano soltanto 4 gruppi, in tutto benefit per 2 ragazzi da RLA, che poi parole dovevamo pagare, com'era? Le spese giudiziarie per l'anno TAV. Esatto, esatto. E infatti volevamo partire con un pezzo di un gruppo, per appunto, che l'RLA, a cui sono molto, molto affiancati, ci tengono tanto. Sì. E sono nati da veramente poco. Sono nati all'interno. Esatto, esatto. Cioè, sono cresciuti con loro, resteranno con loro. Il gruppo si chiama Radio Clan. È un gruppo che è nato da nemmeno un anno. Sono sempre di Reggio Emilia. In cui soltanto uno di loro, potremmo dire, ha avuto esperienze con già gruppi, eccetera. Il batterista, con i Suburban Prow. Se volete andatevi a sentire i podcast della prima puntata nostra, almeno potete sentire chi era questo gruppo. Poi gli altri membri, per quello che so e per quello che mi ricordo, non hanno suonato in altri gruppi. Poi ci sta che posso sbagliare. Intanto godeteveli. Radio Clan, Patria Nostra. 1-3, Boots, 1-2, Radio Wombat. Gente vera, beleale, ci daremo cibo e festa, ma se fai lo stronzo trovi chi ti spaccherà la testa. Tranquillamente si sente subito questa traccia di quanto le idee siano chiare di questo gruppo, quanto siano antifascisti e quanto siano appartenenti alla parte reggiana. Esatto. Del gruppo. È un gruppo che comunque nasce da pochissimo. Come ho detto prima, sono da un anno attivi. Hanno suonato di già nei pressi di Firenze, a Campi Bisenzio. Un concerto organizzato dall'Underdogs Collective, in cui ci stavano sia il Radio Clan, i Cosa Nostra e più il gruppo locale, i Bob Rottanti. Cioè, a mio avviso un gruppo veramente gradevole, cioè i testi tipicamente oi, senza peli sulla lingua, esatto, molto diritti, esatto. Con riff di chitarra proprio graffianti. Sì, sì. Io adesso metterei la seconda traccia che riguarda i Red Clan, esatto. che sarà... Non si tocca. Però vogliamo precisare che la playlist di oggi è fatta tutta con la scaletta dei gruppi che ha suonato sabato scorso. Assolutamente a Reggio. Sì. Tratteremo i gruppi che abbiamo visto sabato scorso, che come ci siamo divertiti a bestia. Esatto, cioè potremmo dire che ci siamo divertiti, via. Cioè no, io sono ritornato a casa che effettivamente non ero più un essere umano, ma ero un agglomerato di ossa. A chi lo dici, scusami tanto. Dai, non si tocca. Non si tocca. Radio Clan, 1-3, Boots, 1-2, Radio Wombat. Ebbene, questi qua erano il Radio Clan, non si tocca. Alla fine con questo pezzo si può capire, diciamo, la loro mentalità. La genuinità di questo gruppo, cioè fortemente antirazzista e propenso alla working class. Esatto, cioè non è uno di quei gruppi che si vestono da skinhead, che poi di skinhead non c'hanno un cazzo e vanno, diciamo, a fare i borghesucci, eccetera, eccetera. Io ho promesso a Gramenco oggi di essere un bravo bimbo, quindi non dirò nessuna parolaccia, non infamerò nessuno. Esatto. No, e poi parole, andremo ora con un gruppo di Firenze e lì ritorno. Andate nella prima puntata del One Tree Boots. One Two. E qui potete sentire anche la storia di questo gruppo. Un gruppo che è totalmente locale a Firenze, totalmente locale, che lo conoscono tutti del giro centro sociale. Che e poi donna. È anche famosissima per avere dei live infuocatissimi sia sopra il palco loro, cioè veramente suonano con l'anima, esatto. Sia sotto il palco a Firenze, cioè... Vedere un live dell'Attacca a Briga a Firenze forse è qualcosa di superlativo. Sì, sì, molto, molto, molto superlativo. Mi ricordo al compleanno di Camilo Sanfuegos, quando c'erano più di 500 persone, con i Nabat, con ogni fame e gli Attacca a Brighe. Stato un concerto che rimarrà nella storia. Il no plus ultra dell'oi punk italiano, a mio avviso. Sì, esatto. Senza girare troppo con le parole, buttiamo il primo pezzo. Esatto, che è tratto dall'ultimo album, potremmo dire, un audio, cioè un album demo, potremmo dire, un tape demo. Dell'album Attacca a Brighe. Attacca a Brighe, sì. Del 2013? Più o meno, sì, quegli anni lì. Cioè, nemmeno tanto vecchiotto alla comunque fine. È un bel punk oi anni 90 sparato a catena che come ci dai. Piace a noi. Esatto, esatto. Bene, andiamo col prossimo pezzo. Attacca a Brighe, Attacca a Brighe. One Tree Boots, One Two Radio Wombat. Perfetto, questo era il primo brano dell'Attacca a Brighe dall'album omonimo dell'Attacca a Brighe. Bellissima è stata una collaborazione tra l'Attacca a Brighe e le Mele Marce. Esatto, esatto. Che hanno dato i natali allo split album che si chiama Dai Sobborghi. È uscito nel 2000, ma forse è registrato nel 1999, da quanto ho capito. Sì. Un album veramente... E a mio avviso è essenziale per l'oi punk italiano, semplicemente per un fatto che comunque le Mele Marce e gli Attacca a Brighe hanno un suono che non è totalmente diverso uno dall'altro. Cioè le Mele Marce cercano di avere degli inserti scareg all'interno dei pezzi. Sì, ci sono alcuni pezzi che lo definiscono completamente così alla fine. E mentre le attaccabrighe arrivano a diventare anche oi core in alcuni, alcuni pezzi, come tipo il pezzo che faremo sentire, il prossimo pezzo, che sarà dai sobborghi, esatto, è fondamentalmente tirato a catena fino alla fine. Questo split album, che io sinceramente, personalmente amo, all'interno, cioè quelli che sono tutti i temi e la musica del skinhead punk, cioè cori da stadio, riff semplicissimi e ripetuti per tutta la durata del brano, che a me mi fanno impazzire, con comunque testi che parlano di odio verso la polizia e i nazi, amore verso la propria città e verso la propria squadra, come il prossimo pezzo che verremo a sentire. E quindi io metterei dai sobborghi adesso. Sì, però vorrei dire una curiosità, che per appunto era stato al concerto a Reggio Emilia. Forse il mio collega era troppo ubriaco, non se lo ricorda, ma durante il concerto era saltato la corrente, luce compresa. Mi ricordo benissimo. Ah, buono, siamo messo bene a questo punto allora. E era saltata la luce per quanto tempo? Una mezz'oretta? Più o meno? Sì, una mezz'oretta. E lì, visto che non si sapeva cosa cavolo fare, nell'attesa abbiamo fatto partire cori su cori su cori, non ricordo nemmeno che cori erano, però è stata una scena spettacolare, perché si vedevano lì 500 e rotte persone che con le mani in mano, potremmo dire, abbracciati come un vero movimento. Sì, come un vero movimento, uno parte con un coro e tutti lo seguono, cioè è stata una cosa spettacolare, guarda, cioè senza tutti le varie cose che ci rendono nemici. Esatto. Perché poi all'interno del movimento skinheads, anche di sinistra, ma le nemicizie calcistiche ne fanno ce ne fanno da padrona. Esatto, esatto. Poi come andremo a vedere in futuro con varie interviste, i personaggi e crew italiane che hanno reso possibile ora come ora la scena skin punk italiana, ci diranno di sicuro, come hanno detto, diciamo, ai giorni d'oggi, che prima le risse, diciamo, ai concerti per via delle tifoserie nemiche succedevano, purtroppo. Però ora come ora è molto molto difficile che capita, diciamo, una rissa per via di storie, sì. Storie calcistiche. Che ci conosciamo adesso. Sì, vai. Sì, cioè ci conosciamo tutti, più o meno siamo fratelli, eccetera. Ci offriamo le birre al bancone del bar, sappiamo cosa a dire, cioè, poco stupenda. E chi non sa del movimento skinheads, cioè, ragazzi, cioè, non state alla larga da noi. Cioè, oltre quello che vi dicono i media, che gli skinheads sono dei nazi di merda, che fanno schifo e picchiano persone. No, cioè io ho visto in concerti skinheads semplicemente una grande fratellanza all'interno del movimento. Esatto, esatto. Una grandissima fratellanza che va oltre, ma veramente oltre lo spirito che ci circonda nello stesso momento. Cioè, nel senso, Gramenco mi ha ospitato nella sua tenda quando siamo andati a Rotten Camp. Io ancora Rotten River Camp quest'estate. Io l'ho perso il sacco a pelo. Ancora non mi chiede i tassi di ammortamento di questo sacco a pelo. Ancora non li ricompro. Cioè, c'è questa fratellanza. Vabbè, poi quando arriverai a casa, nella casella della posta, troverai una bella sorpresa. Grazie, mi ha mandato la multa, Gramenco. Sì, multa che farà un bello scoppio. Dai, adesso dai sobborghi. Dai sobborghi, attacca breghe. One, three, boots, one, two. Radio Wombat. Dai sobborghi fiorentini, sì, le fatto non sono arresi. Dai sobborghi, dai sobborghi, dai sobborghi. città, la Fiesole ha un solo cuore, che sempre batterà e mai si fermerà, e brillerà per sempre la stella di Firenze, la nostra fede è grande ma tramonterà, l'Europa, l'Italia, Firenze, un solo grido si alzerà. Oh, personalmente amo questo pezzo, tranne l'ultima parte, perché fondamentalmente per me viola il colore solo della morte. Però oltre a questo c'è lo split dai sobborghi, uscito nel 2000 tra le Mille Marce e l'Attacca a Brighe, è veramente uno split gradevolissimo, anche perché fondamentalmente i due gruppi, sia l'Attacca a Brighe che le Mille Marce, hanno cioè non sono tanto diversi musicalmente. L'hai detto anche prima, te lo ricordo. È questo, cioè, fondamentalmente è questo. Ma io direi che alla fine musicalmente sono anche abbastanza diversi, per il semplice fatto che, come dice lo stesso nome, le Marce hanno un suono molto più marcio rispetto agli Attacca a Brighe. Invece gli Attacca a Brighe hanno quello sprint pochino tecnico che però rende sempre il punk lui a livello musicale. Però sì, cioè, con una bella tenuta da... non so nemmeno io descriverla. Perché cioè, è una cosa è una... una... un sacco di cazzotti che ti arrivano durante il concerto. Fondamentalmente è questo per descrivere un live dell'Attacca a Brighe. Sì, cioè non ci può esatto. avere un altro mezzo termini. Cioè ti stai 20-30 minuti a prenderti sti cazzotti diretti in faccia che ti manderanno l'Attacca a Brighe sul palco. Che è bellissimo vederle sia loro che sono completamente focatissimi sul palco, sia giù. Cioè l'ho visti fuori da Firenze, non l'ho ancora visti a Firenze io personalmente e penso che sia la cosa, il concerto i punk dell'anno, se posso vedere gli Attacca a Brighe a Firenze. Vabbè, che sono da Firenze da pochissimo. No, certo, però alla fine gli Attacca a Brighe non è quel gruppo che diciamo va sulla moda. C'ha tanta coerenza sia nei testi che scrivono e sia nella vita normale di tutti i giorni. Sono una cosa allucinante proprio a livello fiorentino, perché è una cosa assurda, cioè molto molto concreta, potremmo dire. Cioè, ripeto, una cosa spettacolare. C'è uno dei pochi gruppi che mantiene la genuinità dello punk degli anni Ottanta. Sì, esatto, perché tanto alla fine i pezzi nuovi non sono nemmeno tanti, per quello che ho visto. Sanno 5? Sì. Più o meno. E comprendendo poi lo split insieme a me, Marce, sarà in totale una decina. No, lo split delle Mille Marce sono 9 pezzi dell'Attacca a Brighe e 6 delle Mille Marce. Ah, ok. Quindi, sì, dai sobborghi. Quindi... fondamentalmente adesso io butterei un altro pezzo di questo split, sì, che a me piace sinceramente il ritornello. Il ritornello piace tantissimo, che si chiama Borghese. È un pezzo che poi effettivamente delinea questo gruppo che a me piace un bordello, ragazzi. No, le Mille Marce hanno fatto il loro, diciamo, quando dovevano farla. Hanno fatto questo live a Reggio Emilia, perché visto che sono anche amici dell'RLA, sì. E l'RLA quando li ha chiamati ha detto: ragazzi, noi dobbiamo fare questo benefit per i nostri ragazzi. Che vogliamo fare? Volete venire a suonare? Va bene, per voi si fa senza problemi, senza problemi. E già qui rende parecchio la mentalità, perché se, secondo me, se era un concetto normale di un locale... non sarebbero mai andati. Non lo so, ci potrebbe stare, però visto che gli hanno detto un benefit, subito. Cioè... però il problema di fondo è questo. Adesso faccio... in questa puntata devo fare il bravo ragazzo. Però alla fine, se le band si definiscono skinheads o fanno parte di questo movimento, non possono chiedere troppi soldi per andare a fare le serate. Perché le serate sono per il movimento. Ma questa questione secondo me dura da affrontare ora come ora, perché sì, è una disquisizione abbastanza delicata. Sì. Io metterei dai sobborghi. Andiamo a mettere, no, Memace, Borghese, One Tree, sì, Boots, sì. One Two, Radio Wombat. Questo qua era il pezzo Borghese delle Mele Marce. In questo pezzo si può sentire proprio, diciamo, la loro mentalità punk. Cioè, prendevano per il culo i borghesi dicendo ti amo Borghese. Una cosa veramente incredibile. Cioè, bellissima. Le Mele Marce è un gruppo che fondamentalmente uniscono. Cioè, non forse in questo split album, ma nell'album che hanno fatto nel 2001 per l'Amphibia Records, Undicesimo Comandamento, è un album che nell'oi punk italiano ci rivela una band che è contro tutto, cioè anticapitalistico, anticlericale, antiamericano, antipolizia, antinazi. È un album veramente bellissimo, si capisce anche dalla copertina in cui si vede un ciccione crocifisso con la bandiera americana sugli zebedei. Questo è un gruppo che nasce a Reggio Emilia. E iniziano il primo demo è il del 1996 che si chiama Io Antifascista Azione Aoi, che poi fanno l'EP l'anno dopo, sì, nel 1997 insieme alla Lotta Continua. Il prossimo, il prossimo pezzo che faremo sentire è tratto dall'Undicesimo Comandamento, che è un album fatto per il 2001 come abbiamo già detto, che si chiama La Madonna. Esatto, cioè, semplicemente non posso dire più niente su questo brano perché esatto. Già il titolo rivela assolutamente tutto. Sì, sì, ma cioè, rivela completamente ogni cosa di questo pezzo. Ma il problema di fondo è che non è questo pezzo, è tutto. Cioè, per capire questo pezzo bisogna ascoltare tutto l'album Undicesimo Comandamento, che inizia con intro e la seconda canzone si chiama Gesù. La canzone si chiama Se Gesù e fa tutti i bambini andiamo a mettere i chiodini in braccio a Gesù. Cioè sì, stiamo sì, parlando sì, veramente sì, di sì, persone che uniscono l'antifascismo al nazismo, all'antinazismo, all'anticlericanismo con un mood cazzaro a livello esagerato. Ma visto che ci siamo, facciamo una bellissima cosa. Facciamo così. Cantiamo l'inizio di questa canzone in diretta. In diretta, in diretta. Abbiamo anche... diciamo di no. Vabbè, sì, vabbè. La cantiamo in diretta, vai. Vai. Allora, me e Marce, la Madonna, 1, 3, Gramenco e NN. Radio Wombat. La Madonna ha un dito in culo, sha la la la la la la la la. Madonna ha un dito in culo, la la la la la la la la la. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria. Grande le mele marce, veramente grande le mele marce, un'attitudine superlativa, l'esperienza alcolica, potremmo dire, perché per fare un pezzo così, se hai una minima esperienza nell'alcol, è quasi impossibile assolutamente farlo. Assolutamente sì, ma infatti basta ascoltare l'album e noi... abbiamo già detto tutto. Se vi va, andate ad ascoltare, tanto ci sta su YouTube, o se no, come fanno, diciamo... Siamo il gruppo alcolico, sezione di... siamo tutti alcolizzati, cioè inizia così il pezzo. Esatto, esatto. E allora. Allora adesso stiamo iniziando ad avere la parte calda del molto, molto calda, perché alla fine è stato concerto della Madonna quello di sabato. Cioè, io ho fatto anche un paio di stage diving che non sono il tipo, eh. Esatto, esatto. E poi ci stavano 600 persone contate a quel concerto. E lì si riesce veramente ad accorgersi che c'è che tanta... cazzo significa il movimento. Esatto, esatto. Cioè, per un benefit con questi gruppi, cioè, era naturale che venivano così tante persone. Addirittura sono venute anche due ragazze della Puglia che mi hanno... che mi hanno fatto morire dalle risate durante la serata, grandissime. Infatti vorrei salutarle, la grandissima Claudia e la Wendy, persone spettacolari che si sono fatte ore e ore di viaggio per venire a quel concerto, giusto per farvi capire la mentalità. Poi da Bologna hanno organizzato i bus, da Bologna, che Bologna, Reggio Emilia... mezz'ora di treno. Esatto, cioè hanno organizzato i bus ed erano 35 persone, roba di genere. Cioè, cavolo, è una cosa unica, veramente, cavolo. Non, cioè, è come se la gente di Campi Bisenzi organizzasse un bus per andare al CPA. Al CPA, sì. La stessa cosa, cioè una cosa spettacolare. Comunque, guarda, ho detto già prima che stiamo arrivando nella zona calda del programma. Il prossimo gruppo è un gruppo che già avevo messo nella prima puntata con altre canzoni. Però la canzone che stiamo mettendo adesso è un proclama veramente che... cazzo è il punk, cioè non si tratta di borchi, anfibi e creste colorate, non è un fenomeno giovanile e non è una trend delle mode del momento, il punk è punk. Esatto, cioè c'è poco da dire su questo pezzo, perché alla fine io che sono stato punk da quando ho avuto 16 anni fino all'anno scorso, potremmo dire, mi sono accorto che il punk, da come l'avevo visto dall'inizio a dopo, era una cosa completamente diversa da quella che mi aspettavo. Io credevo che fosse, sai, mi prendo la giacchetta di jeans, mi ci metto qualche toppa, prendo il chiodo, mi faccio la cresta. Sì, faccio la cresta colorata e via. Non è quello il punk, perché io ho conosciuto persone rasate a zero o con capelli normali, taglio normale, diciamo, che sono molto più punk della gente con le creste. È una cosa indescrivibile. Il perché punk non è moda, il punk è uno stile di vita. È uno stile di vita. No, come cito una famosa citazione di un film: il punk non si vede dalla cresta, ma si vede dalla testa. Il punk è una cosa che non si può descrivere. Adesso ci saranno i Colonni Infame Skinhead. Esatto, i Colonni Infame, gruppo famoso. Punk e moda. O i Straight Edge. O i Straight Edge, perché o i Straight Edge? Perché i cantanti Straight Edge. Straight Edge, non tutti sono Straight Edge. Straight Edge vegano, però grandissima persona, anche se ci parli sembra un pochino nichilista, no? Però nell'ambito underground ha fatto il suo. E tantissimo, tanto. Che di fatti è anche vegano, no? Lui sì. E per appunto, per diciamo la mentalità vegana, l'ha resa sempre nell'underground. Ha messo su un blog, se non erro, insieme la sua moglie o ragazza, quello che è, ha messo su un blog completamente underground che si chiama Riot Vegan, qualcosa del genere, e qui ci ha buttato un fottio di ricette vegane, ma veramente bellissime. Infatti, se gli ascoltatori sono sullo stile di vita vegetarianissimo, vegano, consiglio caldamente di andarlo a vedere, perché è una cosa bellissima a livello culinario. Poi vabbè, i restanti membri alla fine hanno fatto il loro a livello di strada, diciamo, nei quartieri di Roma. Diciamo che alcuni si sono veramente sbattuti, compreso uno che si sta ancora sbattendo, sì, Damiano. Sì, Damiano. Che gli do, gli mando un mio carissimo saluto, persona adorabile, che da quando ha 16 anni, e ora mi sembra che ce n'ha 38, del genere, si sbatte ancora a organizzare concerti, a supportare, e c'ha pure una, cos'era, non mi ricordo, Innate Print, che poi parole fa magliette, felpe, eccetera, per i gruppi. Questa si chiama pubblicità progressa. Vabbè, pubblicità. Comunque il gruppo nasce nel 96-97, hanno il primo album registrato del 97 che si chiama Colonna Infame Skinheads. E Skinhead, no Skinhead. Skinhead. Dopo una prima... si sono sciolti in un primo momento e poi hanno fatto un bellissimo split con i Duop che dovremo approfondire in una delle prossime puntate. Adesso che cosa, cosa mettiamo di Colonna Infame Skinheads? Punk e moda. Però mi sta arrivando, diciamo, una notifica per la descrizione che abbiamo detto, ed è giusto naturalmente. Se avete qualcosa da dire basta che ci scrivete e noi lo diciamo. Allora, in poche parole, correttezza è questa qua. Ai tempi di quella canzone non c'era Damiano, ma i gemelli Time Bomb, che erano Straight Edge. Quindi erano tre erano quarti... Erano tre Straight Edge e uno Skinheads. Esatto. All'inizio, sì. Esatto. Sì. Assolutamente sì. Solo il batterista era Skinheads. Il resto della band era Straight Edge. Sì, esatto. Sì. E però vorrei fare anche un saluto al famoso Polpetta di Firenze che mi aiuta in queste cose. Grandissimo Polpetta, anche lui Straight Edge vegano, che si sbatte un fottio per supportare l'underground fiorentino e non. Grande Polpe, saluto e un abbraccione, ci si becca la prossima volta. Punk e moda, non è un fenomeno giovanile, non è una delle tante mode del momento, come dice questa canzone. Esatto, poi ve la sentite per bene, ve la goderete in maniera incredibile. Con ogni infame Skinhead, punk e moda, 1-3, Boots, 1-2, Radio Wombat. We'll be right back. Ragazzi, stiamo avendo recensioni positive da persone carissime, e quindi le ringraziamo di cuore. E grazie mille. Cioè, stiamo cercando di fare il nostro meglio. Semplicemente stiamo cercando di passare la nostra passione, che è quello per lo punk e per il movimento skinheads in generale, a voi tutti in radio. Quindi, cioè, questi apprezzamenti ci fanno piacere, ma tantissimo. Cosa dici, Graminco? Cioè, riempiono sempre il cuore pieno di gioia per queste cose, guarda. Cioè, non ti senti il figlio della merda in questo no, periodo? No, ma le sento soltanto i weekend, quando sono in un angolo completamente ubriaco. Tipo ieri sera? No, ieri sera stavo abbastanza bene, no. Mia. Sì, sì. Che poi ieri sera c'era stata una serata spettacolare al CPA, che il festival si chiama Speracchia Fest. Un onore partecipare ogni serata volta quanto è possibile. Serata benefit anche non questa. È serata benefit, è un memorial. Sì, è un memorial, scusami. Un sì. Memorial per un personaggio spettacolare di Firenze che io purtroppo non ho potuto mai conoscere. È importantissimo per la scena punk italiana. Esatto, ho organizzato tantissimi concerti lì all'interno dello spazio CPA. E infatti in onore suo vogliono continuare, diciamo, la tradizione. È una cosa veramente bellissima. E ieri ci stavano anche i Raw Power, cioè è stato un concerto spettacolare. E poi ci stavano i giovanissimi Plankton Hardcore, grandissimi gruppo grande. Di Firenze, i ragazzi giovanissimi, che cioè una cosa indescrivibile, perché il batterista spacca. Comunque, per precisare, lo Sparacchia Festival è in onore di Felix, che è scomparso nell'agosto del 2003 per un incidente stradale. Grandissimo personaggio che comunque ha organizzato tanti concerti punk e hardcore a Firenze e non solo. Esatto. Però ha reso tanto alla scena fiorentina. Sì, sì. E ieri veramente diverse persone a rendere memoria di questo grande personaggio. È stata una cosa stupenda, come ogni anno alla fine cercano di farlo. È la tredicesima occasione dello Sparacchia Festival, se non sbaglio, giusto? Come, scusa? È la tredicesima edizione dello Sparacchia? Oia, allora mi sa che ho bevuto troppo ieri. Non ricordo sinceramente, guarda, non vorrei offendere gli altri ragazzi del CPA, scusate, però che cavolo. No, cioè, è la tredicesima, quasi coma. Mandateci qualcuno del CPA che ci sta ascoltando, mandateci un messaggio per avere una conferma o meno su questa cosa. Comunque io continuerei sui Colonna Infame. Beh sì, che alla fine è anche l'ultimo pezzo che mettiamo. E poi chiudiamo la serata, almeno non vi scassiamo i cosiddetti coglioni. Che io adesso balerò sulla sedia per tutta la durata del pezzo, perché a me mi fa morire. Esatto, ma perché ti fa morire? Descriverci perché provi questa emozione. Lo diremo dopo. Facciamo sentire il pezzo. Ma veramente, ma te sei proprio un ragazzo che sei pieno di emozioni. Sono sanguigno, Graminco, sono sanguigno. Cioè, la prima volta che si è fatta la puntata, a un certo punto si è messo sul tavolo a ballare, tra poco faceva uno spettacolo. Con gli NCP, ma stai scherzando? Dobbiamo fare il live con la fotocamera, Graminco. Magari dai, un futuro, quando ci farà anche lo spettacolorino, dai. Il nudismo ci piace. Mettiamo il pezzo e poi descriviamo le emozioni, Graminco. Esatto. Allora, il prossimo pezzo si chiama Nessun Rispetto, sempre con un infame. Questa qua è 1-3 Boots 1-2 Radio Wombat. Una vita da bianco, hai cercato il tuo riscatto in quei lucidi scaffoni, hai rasato la tua testa. la sua infamità. Noi ancora in piedi, noi odiati e fieri. Ancora non lo sa che pagherà con sangue la sua infamità. Noi ancora in piedi, noi odiati e fieri. Ancora non lo sa che pagherà con sangue la sua infamità. Noi odiati e fieri, noi ancora in piedi. Bene, questo pezzo era quello infame, nessun rispetto. Nessun rispetto, bellissima quarta traccia dell'album dello Split, che nel 2014 i Colonna Infame hanno fatto con i Nabat, che si chiama Tu ti sei fermato ad ascoltare. Bellissimo. E uno degli Split, e comunque tutti gli skinheads italiani dovrebbero almeno ascoltare una volta a settimana nella loro vita. Sì, vabbè, una volta a settimana. Io farei anche sette volte a settimana, cioè... Vabbè, ma effettivamente io mi mantengo sul... sull'arco, capito? Cioè, non devo obbligare persone ad ascoltare gli stessi album lo stesso giorno. No, faccio sì, io, sì, no? Certo. Ma poi, se non erro, si sente anche parecchio la differenza a livello musicale e tecnica rispetto ai due album dei Colonna Infame. Sì, sì, parecchia, molto, molto più tecnici nel 2014, con un palm muting del chitarrista che è veramente serrato, veramente bello. E... molto rock and roll, potremmo sì, dire. Sì, sì, sì, sì, cioè, sì, sì, sì, sì, quasi sul meta, via. Sì, veramente tecnicissimi, belli, belli. E... non so che cosa c'è, penso comunque adesso siamo arrivati quasi agli sgoccioli. Sì, però visto che abbiamo voglia di parlare, continuiamo. Dai, a parlare. Sì, io metterei anche una bonus track. Che cosa ci caccia il gramenco dal cilindro? Ma per ora... Mandate un messaggio al gramenco per sapere... per avere una canzone adesso, subito, da ascoltare. Punk. Io una mezza idea ce l'avrei. Sì, però tienila per te e non rompere. Perché no? Cioè, io sto facendo radio proprio perché mi voglio ascoltare le mie bellissime canzoni nella cuffia. Cioè, non è che sto facendo radio perché... Io metterei... Anzi, facciamo una cosa. Parliamo di una certa serata che abbiamo fatto in Santo Spirito. Ah, sì. Eravamo io ma, questo... penso che non interesserà a nessuno. Vabbè, però lo contiamo, giusto per prendere tempo. Eravamo una volta in Santo Spirito, no? Io e questo personaggio qua, insieme a un altro nostro caro amico che non vogliamo fare il nome. E insomma, eravamo lì in Santo Spirito e si vedeva questi borghesucci con la loro chitarra classica suonare una canzone. Una canzone, è la canzone del sole, la grandissima canzone che comunque tutti si vogliono dire che sono chitarristi e tutti suonano la canzone del sole. Però effettivamente le Mele Marce l'hanno fatto assolutamente meglio una canzone di Adriano Celentano. Sì, sì, sì, ovvio, ovvio. Però, Però comunque effettivamente sti borghesucci e queste persone radical chic di sinistra bisogna troncarle in un modo. Sì. Abbiamo preso la chitarra e abbiamo iniziato a fare un blues ignorantissimo, proprio per dire siete figli della merda. Vabbè, non esageriamo, Cioè, non hai detto completamente così, hai detto solamente... Siete visto? Figli dello sterco, ho detto. Anche, anche. Bene, io metterei questa bonus track che è di un gruppo OI americano. Famoso perché era uno dei pochi gruppi OI americani, cioè scusate, romani. Siamo vicini, giustamente. Sì, esatto, cioè dietro confine. L'angolo, esatto. L'America con Roma confine. Sì, sì, ho voglia, voglia. E c'è questo gruppo che ha fatto anche la storia dell'OI romano, poi ne andremo a parlare più avanti con tranquillità, eccetera. E niente, gruppo si chiama Pinta Facile, di già dal nome sì. Si può capire il loro livello alcolico, via. E io posso anche, cioè non so che cosa, che traccia sta mettendo, allora facciamo una scommessa. Secondo me la canzone sarà La mia politica skinhead? No. No, no, ho sbagliato. Esatto. No, quella è la mia preferita. Ho sbagliato. Esatto. Ok, va bene, ho sbagliato. Allora, queste qua è per tutti i giovani kids, o le giovani kids, o anche vecchi decrepiti, potremmo dire. Senza offesa, vi voglio bene l'anima. Che insomma, tutti abbiamo avuto attimi di sconforto, no? E quindi abbiamo combattuto questi attimi di sconforto andando sempre a testa alta in ogni strada, eccetera, senza aver paura di niente. E io parlo da giovane, e quindi in futuro chissà che cazzo anche mi può capitare. Anche io ho 13 anni. Capito. E niente, allora, il prossimo pezzo è Pinta Facile, Attimi di Sconforto. E con questo vi salutiamo. Vi ringraziamo di averci ascoltato. E ci sentiamo domenica prossima. Domenica prossima. Con bellissime novità domenica esatto. prossima. Io lo accennerei una, dai. No, no, no, non accenniamo. Facciamo solo figure di merda. Abbiamo accennato. Dai, come dai. Abbiamo accennato due domeniche fa, abbiamo fatto una figura di merda che non eravamo near. Non accendiamo niente. Dai, accendiamo. Dai. No, mi piacciono le sorprese tu. Graminco. Ma te sei te, non stai ascoltando il suo altro. Io tolgo le cuffie e ci pensa Graminco. Va bene. Buona serata a tutti. Buonanotte e buon inizio della settimana, perché tanto si sa, il lunedì è il giorno di merda per tutti, perché si va di nuovo tutti a lavorare, purtroppo. Viva la working class, ragazzi. Esatto. Allora, Pinta Facile, Attimo di Sconforto. 1 3 Boots 1 2 Radio Wombat. Ah, scusate, se ci volete seguire, noi saremo in diretta ogni domenica dalle ore 5. Ma lo sai che io ho cercato di ascoltare lo streaming e ti giuro, appena ho ascoltato la mia voce mi ha fatto cagare in maniera esagerata. Cioè non riesco ad ascoltare lo streaming, arrivo massimo a 3 minuti, dopodiché chiudo il computer e lo butto dalla finestra. Esatto. Va bene. Quindi siete dei temerari, ragazzi. Allora, Pinta Facile, Attimi di Sconforto. Mercoledì saremo in podcast. Sì, mercoledì. Chi lo sa. Un abbraccio a tutti. Buonanotte. Ciao, Eliu. Bella, Chicco. Con una risposta che non c'è. Che cosa c'è che non va nella tua testa? Sei già stanco di andare avanti, stringi i pugni e mira i denti. Sei già stanco di andare avanti, stringi i pugni e mira i denti. Ma non dimenticare mai chi sei. Non dimenticare mai chi sei. Scusate il disturbo, vi vogliamo aggiornare il vostro calendario per fine serata per concerti. Allora, il 3, cioè venerdì prossimo, ci sarà il release dell'album The Bobber 80, che c'è già un pezzo online, è una cosa fighissima. Se andate sulla pagina Facebook The Bobber 80 andrete a vedere dove sarà il posto, eccetera. Mentre, sempre parlando di Firenze, al CPA ci saranno i Termidown, gruppo orco militante storico di Viterbo e non. Poi, se invece siete della zona romana, vi consigliamo di andare all'ex SNIA, che ci sarà un festival che alla fine di 2 giorni è organizzato dai ragazzi Torpedos di Roma, in cui il primo giorno ci saranno i Stage Battles, poi il nostro gruppo preferito fiorentino, gli Attaccabrighe, più altri gruppi che preferisco non dirlo perché deve essere sempre una sorpresa. La sorpresa è sorpresa, cioè non possiamo... Sì, cioè, va... è come l'ovetto Kinder, i concerti punk, è bellissimo capire che cosa c'è dentro, no? Sì, sì, ho voglia. Se vi va di essere aggiornati per questo evento a Roma, andate direttamente sulla pagina Facebook dei Torpedos di Roma e lì ci stanno tutte le info. Poi il secondo giorno ci saranno di nuovo i Termidown a Roma, cioè è una cosa bellissima, sabato a Firenze, sì, cioè è una cosa pazzesca. E niente, e poi se saremo vivi torneremo a fare la trasmissione. Quindi ci vedremo sabato con gli ascoltatori ai Termidown. Ci vedremo sabato agli ascoltatori con i Termidown. Sì, sì, sì, sì, a voglia. Io purtroppo sarò giù a Roma perché Stage Battle sono mai visti e chissà fra quanto cazzo risuoneranno in Italia, cioè... NN sarà i Termidown. Ottimo, quindi ci sono divisi già i compiti e ci aspetteremo delle belle sorprese da parte nostra per domenica. Per entrambi. Cioè, oltre per noi, ma anche per voi che ci odiate che così avete la tanto. Pazienza di ascoltarci queste due voci di merda che ragliano per un'ora nel vostro pomeriggio. Esatto. Va bene, scusate ancora. Noi siamo Granenco. NN. One, three, boots, one, two. Radio Wombat. Ciao!